Italia in controluce. Il pomeriggio di Radio 24 inizia dunque con l'informazione, con il reportage, e questa Italia in controluce, la seconda edizione condotta e coordinata da Daniele Biacchesi. Oggi spostiamo la nostra attenzione verso il sud. Questa è una storia di crisi economica, di riqualificazione di aziende. Questa è la storia dei cantieri navali nella zona Flegrea. Il reportage di Francesco Maesano. Questa storia si svolge nei Campi Flegrei, in quel braccio di costa affacciato sul Golfo di Pozzuoli. Per più di 4 mesi, 115 lavoratori del settore nautico sono rimasti senza stipendio e solo da pochi giorni sono riusciti a trovare un accordo che gli permetta di recuperare almeno una parte delle mensilità. Ad andare in sofferenza sono stati i cantieri Baia, un'azienda nata a Baculi 50 anni fa. Barca dell'anno al Salone Nautico di Genova nel 2007, una produzione di yacht che raggiungono i 70, i 100 piedi. Poi, dalla seconda metà dell'anno scorso, la crisi inizia ad aggredire anche la cantieristica da diporto, il lusso sul mare. Eppure, oltre all'ennesimo dei racconti della crisi, sembra esserci anche un'altra storia da raccontare, quella che parla della riconversione di un'area, quella Flegrea, che dopo decenni di vocazione industriale sembra destinata a cambiare pelle. Ma andiamo con ordine e ascoltiamo la voce di Antonio Capasso, proprietario dell'azienda, e quella di Vittorio Di Capua per la CGIL. Purtroppo l'azienda, trovandosi priva di attività, priva di commesse, non può che utilizzare appieno quelli che sono gli ammortizzatori sociali, proprio per ritardare quello che è il momento peggiore che può avere un'azienda verso il lavoratore, che è la diminuzione dell'occupazione. L'amministratore delegato ci convocò qualche settimana fa dicendo che non aveva alcuna possibilità di pagare gli stipendi arretrati e di pagare anche quello corrente. Questo tipo di problematica non coinvolge soltanto la nostra azienda, ma coinvolge anche i vicini, di cui ovviamente io mi guardo bene a non fare i nomi, perché sennò potrebbe apparire come una cattiva pubblicità. L'azienda dice: c'è una crisi di settore, loro non sono più in grado di avere un minimo di ordinativo. Ora io non so dietro questo loro atteggiamento cosa si possa nascondere. C'è una crisi di settore, questo è vero, però gli altri cantieri navali continuano normalmente a produrre, anche se producono magari qualcosa in meno, ma continuano ad andare in avanti. Ma l'azienda l'anno scorso non era inattivo? Sì, era inattivo, sì. E da un momento all'altro hanno incominciato a sostenere che c'era una crisi e che loro non erano in grado di. Quindi è iniziata la cassa integrazione. E mentre a Bacoli un cantiere nautico ha problemi con gli stipendi, dall'altra parte del Golfo, a Pozzuoli, si assiste alla nascita di un progetto che si propone di cambiare i tratti somatici di quell'area a partire dalla riqualificazione di una zona sul mare occupata dallo scheletro dello stabilimento Sofer. Si tratta del progetto Waterfront Flegreo, un'iniziativa parte di quel masterplan pensato per ridisegnare la linea di costa commissionato all'architetto Peter Eisman. L'economia dei Campi Flegrei muterà rapidamente e in questo cambiamento, come ci ha detto il sindaco di Bacoli, Armando Schiano, anche i cantieri navali sono costretti a trovare soluzioni alternative. I cantieri di Baia possono entrare nell'ottica di una delocalizzazione della parte cantieristica e di produzione per cercare di fare delle attività in linea con quelle che comunque il progetto di turistico recettivo, fermo restando i livelli occupazionali di ieri. Il Waterfront sarà un'opportunità per l'intera zona Flegrea, tant'è che comunque io mi sono visto più volte con l'ex sindaco anche di Pozzuoli, perché proprio Pozzuoli oggi è in una fase commissariale, dove comunque c'è volontà da parte mia e di tutta l'amministrazione a cercare di allargare il Waterfront anche nella zona di Bacoli. Io da parte mia sono disponibile a fare un percorso condiviso un po' con le realtà aziendali, però l'importante è mantenere quei livelli occupazionali, che non è cosa facile, perché parliamo di credo più di 100 unità. Ma come si fa a mantenere gli stessi livelli occupazionali per delle maestranze che sono specializzate nella nautica e lì ci saranno alberghi di fatto? O comunque... questo poi bisogna capire che cosa proporranno i vertici aziendali. Ho capito. Comunque parliamo di dei dipendenti anche giovani di età, i quali sarebbero anche disponibili a riconvertirsi anche in termini di maestranza. I lavoratori, i quali dicono: sindaco, a me l'importante è che comunque si lavora. Poi che comunque noi dobbiamo riconvertirci, dobbiamo fare qualche altro tipo di lavoro e dobbiamo imparare anche qualche altro tipo di maestranza, non è un problema. Magari cose più relative alla nuova vocazione turistica del... Sì. Ho capito. L'importante è che comunque si lavori. Il Waterfront Flegreo è un affare da 600 milioni di euro che promette di portare sviluppo e occupazione in un'area con tassi di disoccupazione drammatici. Il progetto è nato nel 2006 per iniziativa dell'imprenditore Livio Cosenza, eppure i lavori non sono ancora iniziati. La giunta di Pozzuoli del sindaco Magliulo è caduta lasciando il campo al commissario proprio nel momento in cui stava per essere dato il via libera al progetto Waterfront. Una crisi politica provocata dalle dimissioni in blocco dei consiglieri comunali di opposizione, ai quali si sono aggiunti anche due componenti della maggioranza. La stampa locale si è divisa così sulle ragioni dell'impasse politica e sulla natura del progetto. C'è chi lo considera un'opportunità unica per lo sviluppo e chi ci vede una speculazione immobiliare mascherata da piano di rinascita. E allora sul progetto che sarà sentiamo le voci dei protagonisti come Francesco Cosenza di Waterfront Flegreo S.p.A. e Rosario Zanni, responsabile di Rifondazione Comunista per i Campi Flegrei. A Pozzuoli c'è in atto un programma promosso appunto dall'amministrazione pubblica e quindi dalla Regione Campania attraverso anche fondi comunitari per il riassestamento post bradisismico di asset come il Rione Terra, che è l'antica Rocca di Pozzuoli, la riconversione del porto industriale di Pozzuoli in porto turistico, il potenziamento delle stazioni ferroviarie, il riassestamento dell'asse viario di tutta l'area flegrea. Quindi una trasformazione generale dell'area flegrea. Come? Una trasformazione generale dell'area flegrea. Che è in corso dagli anni 80, dall'84 ad oggi, alla quale negli ultimi anni si è sommato lo sviluppo che noi stiamo facendo, che è una realtà, ripeto, grande ed importante, e quindi giustamente in maniera lungimirante l'amministrazione ci ha chiesto un progetto più ampio che riannodasse tutte queste criticità. È un modello urbano discriminatorio, cioè basata sull'architettura di un paesaggio della disuguaglianza sociale. Immaginatevi la scena: arriva il riccone col SUV, che hanno fatto una bretella con i soldi, devono fare la bretella con i soldi del CIPE, se sono stati stanziati 70 milioni di euro lo Stato ha stanziato, che arriverà dalla tangenziale autostrada fino a questa zona. Immaginate il riccone col SUV, non passa neanche attraverso Pozzuoli, arriva direttamente da questa bretella e fa le cose che deve fare, si prende la barca a vela, il caffè che costa 5 euro, che ne so. Nello stesso istante a Monteruscello c'è una vecchietta che aspetta da un'ora e mezza un pullman. Immaginatevi questa scena, cioè è un territorio, l'hanno già distrutto, ma è un territorio che rischierà di approdare a modelli culturali di tipo città sudamericana. Produrrà certamente un indotto occupazionale fortissimo, che noi abbiamo stimato in maniera anche prudenziale in 1500 posti di lavoro una volta a regime di tutto lo sviluppo, che comprende una serie di attività turistico-ricettive, l'Accademia della Vela, piuttosto che laboratori artigianali. Quando un disoccupato mi disse, dice, ma se voi siete contro il Waterfront, perché dite che è una speculazione immobiliare, siete anche contro l'apertura dei cantieri edili. E io risposi semplicemente a questo disoccupato, dissi, guarda, ma tu preferiresti lavorare in un cantiere edile per creare le condizioni per cui un riccone con il SUV viene lì, prende la barca a vela e se ne va in giro nel tuo mare, o preferiresti lavorare con le stesse mansioni, lo stesso lavoro, le stesse condizioni contrattuali, lo stesso vantaggio per i cantieri di, per aggiustare la casa a Monteruscello a tua zia che sta a 500 euro al mese di pensione? Era il reportage di Francesco Maesano sui cantieri navali flegrei. Questo e tutti gli appuntamenti di Italia in Controluce sono scaricabili e riascoltabili su radio24.it. Vi ricordo che siamo anche su Facebook, Twitter, abbiamo un blog che lo trovate appunto sempre in radio24.it. Domani alle 6.30 su Radio 24 vi raccontiamo la storia di una rivista che racconta storie di letteratura, cioè Satisfaction.